tu cuor tu giuro a prova d'altra. Thank you. Thank you. Se ven, es casa la vecchia già lì. Thank you. Charlotte! Charlotte! Oh. Avez-vous...

Passerà 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。